che bella cosa è una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata sole. La malinconia sotto la finestra tua resteria, quando fa notte e il sole se ne scende.